mi richiede troppo, troppa alimentazione qua e mi serve l'alimentazione. Cioè, pompa che lavora giù, il baracchino, ma... E infatti, è bolletta. Tre ingressi. diciamo, dai, femmina. Praticamente saranno quelli, boh. L'esempio del però sono più grandi questi, cioè praticamente il mouse, no? Quelli vecchi che hanno l'attacco non USB ma quello rotondo, ce l'hai presente? Positivo, esatto. Quelli lì poi deve essere l'uscita, diciamo, USB al computer e poi diciamo devi fare la configurazione. Tramite configurazione tu stai andando a configurare lui, poi logicamente ci vuole software, il software tu devi caricare un software, vabbè io l'ho scaricato tramite internet diciamo, così via, ma è bellino perché ti dà una schermata bellina sullo display del computer, dove ti dà tutti i valori, ti dà il frequenzimetro, ti dà l'ago, diciamo, classico, poi ti dà, per dire, i valori, se hai per le impostazioni del processore, insomma, tante cose. È bellino, diciamo, e quel cavetto costa una tronzata. Mi sembra, io l'avevo preso tramite internet, mi sembra che l'avevo pagato, mi sembra, 10 o 15 euro. Ah, vabbè, non è quello. Cioè, praticamente vedi che cosa, scusa. Allora, tu stai vedendo tramite computer un secondo apparato. Ti vedi una schermata di un secondo apparato. Lascia perdere tu e te ne vedi un altro. Dove ci sono tutti i vari comandi, capito? Tramite mouse tu vai a cliccare. Non vuoi cliccare, per dire, sul processore, aumento del processore, ti vai tramite computer. Vuoi vedere eliminati i filtri, non so, di ricezione, vuoi, per dire, cambiare frequenza, insomma, tante altre cose, tutto dal computer. Ah, ecco, praticamente ti fa da sì, ho capito, no? Sì, vabbè, ci può anche provare, dove è il problema, ma non so se ce l'ha. Vediamo un po', ce l'avrà il portatile dietro l'attacco, cosa ne so, vediamo un po', non ce l'ha Sandro, l'attacco sto qua. Ce l'ha, già ce l'ha Luca, ce l'ha, capito, almeno tutti, la maggior parte di tutti quei apparati lì fuori, diciamo che non sia un apparato, diciamo, di livello di nono, ma non penso, diciamo, dovrebbe averlo. Ci proverò, sì, ce l'ha lateralmente, non è dietro, diciamo, il computer, laterale, sì, ce li ha gli attacchi. Venga, sì, no, è bellino, già è bellino, tutto quanto. Diciamo che tramite l'aggiornamento, diciamo, sarebbe un resettaggio di tutti i valori, diciamo così, e quando, per dire, in certi apparati li devi portare a allineare, per allinearli in certi valori, diciamo, e fai tramite lui, tutto lì. Vabbè, mi hai detto che non c'hai il manuale di quell'apparato, ma il manuale lo potresti anche scaricare da internet, volendo, se c'è una stampante. Stampante non ne ho, già, non c'è posto stipendio per il portatile, figurati con una stampante. KK, e oggi vediamo un po' come tutta la barata, vorrei provare. Praticamente va attaccato dove, però, aspetta. Invece ne ho... Aspetta, allora, c'è un attacco che è blu e ha, così, ha occhi chiusi, 15 piedini, ok? Poi c'è l'attacco nero a 7 piedini, dove va attaccato? 15 dei piedini a 8 o 7, tu mi hai detto. Controlla lì, ci deve essere scritto qualcosa. Aspetta, non c'è scritto niente qua. Allora, non c'è scritto niente, praticamente questo qua indica quello a 5, 10, 15, 15 per femmina, indica il monitor. Monitor, non lo so, adesso per dire, di solito c'è scritto presa cat, capito, presa cat, non lo so, è probabile niente di strano che sia quello lì, niente di strano che sia quello lì. Allora, guarda, visto che c'è il computer lì a portata di mano, vai alla ricerca di interfaccia, ci metti interfaccia e il nome dell'apparato, e te lo dà. Capito, dove vai all'interfaccia? Allora, vai sul sito di Google e dici interfaccia, metti, o prima fai il nome dell'apparato e poi interfaccia, oppure alla rovescia, vedi cosa ti dà. Aspetta, allora, eccoci, interfaccia c'è, interfaccia cazzo audio, ma che mi dico? Interfaccia 140 Facebook, ma interfaccia Kenwood, non me lo dà, scritto interfaccia Kenwood, del Kenwood 140, non me lo dà, cioè mi dai così, però non è strano che non te lo dia, lì fuori che non ci sia un collegamento per quell'apparato lì, ma mi sembra strano, però mi sembra strano. Sto guardando una moda, vediamo un po'. Allora, Italian Radio, boom. Antenne, non interessano le antenne. Oh, allora, mercato della radio, radioamatore, questo non interessa. Qua, Italia, Radio Com Forum, Radio Amatore, Radio Kevin 140S. Io ci sono. Perché andiamo a questa pagina qua, non ho capito? Interfaccia, un po'. 40S. No, già dice. No, sempre. Interfaccia Kevin 140, vediamo un po'. Nulla. Se non ha il posto giusto per portare la nuova. No, non è questo. Pensavo sbagliata. Interfaccia. Il CTS 140. Vediamo un po'. Versione TS 140. Se non lo dà, sa, La faccia ha solo la scritta della radio. Culo da vendere l'interfaccia per PC del. Quindi questo qua chiede se qualcuno ha l'interfaccia per PC del 140 del Kenwood, ecco. Ecco, esatto, vedi un attimino, o se no vai sul sito di. Ci sono vari due venditori, ci sono come Negrini, come Elettronica GM, insomma ce ne sono vari. E ci sono loro accessori per radio amatoriali dove ti danno, diciamo, ci sono queste interfacce, capito? E mi sembra l'interfaccia completa, mi sembra che costi intorno ai 60-70 euro. Capito. Infatti questo qua stava cercando l'interfaccia del 140. Stava cercando l'interfaccia del 140. Da questo cacchio robot che ho scritto, ecco che vuol dire 440, ma non lo dà, perché sono un po' 36 euro costa, si chiama RS232 computer controller for che vuol dire 440, però non 140, 440, 32 euro costa, cioè 36 euro compravo subito, ecco vedi. Però aspetta, bisogna vedere un attimino se si può adattare, ma penso di sì. Su quel sito cosa ti dà? Il sito del rivenditore? Guarda chi è il rivenditore. No, su eBay è poi ce n'è un altro, sesta categoria cable, Kewood, TS440, TS940, TS950, TS950. Ma mi sa che non va bene. No. Qua dice, aspetta, quale TS440? Non mi serve uno lì, aspetta. Allora, questo qua dice controller for Kewood TS440. Forse non va bene il 340. Beh, non lo so, bisogna vedere un attimino se va bene o non va bene, capito? Bisogna vedere un attimino, perché ognuno, diciamo, ogni apparato ha il suo componente, tutto lì. Bisogna cercare un attimino, bisogna andare alla ricerca. Vabbè, dai, tu, ti lascio un attimino. Che chiudo un attimino, dai, sei qui da più tardi, ok? Sì, vabbè, tranquillo, stavo anch'io, mi hai anticipato che ho a moglie di qualcosa. Ci sentiamo magari più tardi, sono domani. Ciao ciao. Ehi, ciao, ciao. E grazie, ciao ciao.